investire informati. 800 24 00 24, cominciate a mettere subito mano alla cornetta per raccontarci quali sono i temi di mercato che vi stuzzicano in questo momento, che vi fanno porre delle domande, a che punto siete della manutenzione delle vostre strategie di investimento. Oggi su questi temi ci confrontiamo con Simone Binismaghi, vice direttore generale di Arca SGR, oltre che responsabile sviluppo e marketing di questa società. Ben ritrovato, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Ci ha portato peraltro tanti regali, fra cui ve lo segnalo già perché è interessante, perché oggi abbiamo una puntata ricca anche di riconoscimenti per i nostri ascoltatori, e per chi sarà particolarmente bravo oggi potremo regalare anche Finanza comportamentale in azione, che è un libricino che Arca ha distribuito proprio al recente Salone del Risparmio, dove eravamo presenti anche noi, e quindi lo ringraziamo naturalmente per averlo portato, per aver portato qualche volumetto. Oltre a questo, naturalmente ve lo dovete meritare come sempre, per cui fate attenzione a questa... Fateci tanti, fai attenzione col microfono. È vero. Fateci tanti complimenti. Prima cosa. Che è questo, che... Quelli non ci mancano mai. Poi fate attenzione a questa prima parte della trasmissione, perché faremo già qualche ragionamento che ci sarà utile per la seconda parte, parte nella quale vi faremo poi il nostro domandone. Allora, oltre a questo libricino, oggi avete anche l'opportunità di portarvi a casa di nuovo altri biglietti per il concerto dell'ultimo tour del nostro Enrico Ruggeri. Sapete che è in giro con il suo tour Pezzi di Vita. Precisamente oggi tre di voi, i primi tre che risponderanno correttamente al domandone, potranno accaparrarsi una coppia di biglietti per la data del 6 maggio a Lucca al Teatro del Giglio. Naturalmente noi vi invitiamo a partecipare per avere questi biglietti, Se siete nei dintorni, se siete interessati proprio ad andare alla tappa di maggio di Lucca, se vi trovate in quella zona e se siete disposti a raggiungerla. Per cui attenzione allora a tutta la nostra trasmissione per tutte queste cose che succederanno stamattina. Però, dottor Binismaghi, noi prima abbiamo parlato a lungo di movimenti involontari legati appunto alle questioni che affrontava Nicoletta con il nostro specialista di questa mattina, un po' anche quelli che hanno i mercati finanziari, no? Quando sono condizionati da fatti macroeconomici che poi naturalmente vanno ad incidere profondamente nelle dinamiche di azioni ed obbligazioni. Prima di parlare di Grecia, perché in questi giorni è ritornata di nuovo a risollevare l'attenzione generale, quindi di mercati, azioni e di obbligazioni, vorrei partire dal tema tassi di interesse, perché l'ultima volta io mi sono ripescata l'ultima scaletta che avevo preparato per una sua partecipazione il 19 febbraio, e le avevo chiesto un commento sul famoso quantitative easing della Banca Centrale Europea. Avevamo già visto i primi effetti, i tassi di interesse appunto continuavano a scendere, questa tendenza ancora continua, al punto che proprio due giorni fa c'è stato questo movimento sul quale è stata soffermata tanta attenzione del tasso interbancario Euribor a tre mesi, che per la prima volta è sceso in campo negativo, e lo è anche stamattina, monitorato poco fa. Ci dà una sua valutazione di questo fenomeno, poi faremo un po' di ABC a beneficio dei nostri ascoltatori, spiegheremo anche cosa sono questi benedetti tassi interbancari. Che sta succedendo? Beh, è una conseguenza, come dicevamo, di questa politica molto aggressiva della Banca Centrale Europea, no? Di acquistare titoli e dare liquidità al mercato. Liquidità quindi che inizia a essere estremamente abbondante, onde per cui essendoci abbondanza di liquidità c'è più offerta che domanda. E siccome la liquidità è scambiata sul mercato tra gli operatori bancari, c'è chi ha molta liquidità e che quindi la dà in prestito a chi ne ha bisogno. Ma oggi c'è molta più pressione di offerta che non pressione di domanda. Ecco perché il prezzo, no, di questo scambio, che è il tasso di interesse, che determina qual è il costo, essendoci pressione di offerta, i tassi continuano a scendere fino ad andare in territorio negativo. Quindi oggi chi ha liquidità paga per trovare un compratore, non è chi la compra che paga chi gliela offre, ma è chi offre che paga per trovare un compratore. Certo. Siamo in un mondo rovesciato, proprio per questa politica della BCE. Quindi, no, c'è questo mercato quotidiano di scambio di liquidità e ci sono il famoso tasso che è l'Euribor, che è l'Euro Offered in the Bank, no? Interest rates, che determina qual è il prezzo. Quando c'è troppa pressione in offerta, chiaramente il prezzo può essere anche negativo. Esatto, quindi proprio per semplificare ulteriormente, è il tasso di interesse a cui le banche a livello si scambiano europeo, esattamente, si scambiano denaro tra di loro. C'è varie scadenze, chiaramente, perché chiaramente la liquidità viene scambiata dall'overnight, quindi proprio aggiornata. Poi c'è una scalettatura di scadenze, un mese, tre mesi, sei mesi, dodici mesi. Alcuni di questi parametri sono fondamentali perché il tasso a tre mesi, sei mesi è generalmente un punto di riferimento per i prestiti a tasso variabile che le banche, no, utilizzano per prestare a 3-4 anni e fanno pagare. E anche un po' di più perché è il tasso di riferimento fondamentale per i mutui a tasso variabile. Bravissimo. Quindi diciamo che è quello forse con il quale abbiamo più confidenza. È per questo che fa tanto rumore il fatto che sia in negativo, esattamente come tra il 2008 e il 2009, se lo ricorderà molto bene il dottor Benismaghi, faceva tanto rumore il fatto che questi tassi interbancari invece erano volati alle stelle perché il circuito del credito era completamente bloccato. Esatto. E in quel momento le banche non si prestavano assolutamente denaro tra di loro, tanto per ricordare anche un fatto di cronaca recente. Assolutamente. Ecco, naturalmente oggi trovandoci in una situazione rovesciata e come lei ha detto, no, sui prestiti alle famiglie viene utilizzato il tasso Euribor a tre mesi, a sei mesi come parametro per far pagare le rate del mutuo alle famiglie, alle imprese, chiaramente spesso i contratti hanno anche un floor dove il tasso non scende oltre un certo livello. Generalmente i contratti di qualche anno fa avevano un tasso floor che non scendevano sotto il 3, il 2,5, il 2. Perché era già considerata allora, quando si firmavano questi contratti, un tasso molto basso e quindi le famiglie, le imprese accettavano anche queste condizioni che oggi però penalizzano purtroppo perché come si diceva il tasso Euribor è sotto zero, ma chi ha dei finanziamenti molto, la rata si continua a pagarla al 3 o al 2,5%. È scesa molto, ma diciamo teoricamente potrebbe non scendere. Più 800240024 il numero verde per le vostre domande su questi argomenti, peraltro per dare qualche altro riferimento temporale, qualche curiosità. Sento che però poco tempo, sta arrivando il nostro sottofondo musicale che ci introduce poi al giornale radio. Ricordo che questo tasso tre mesi è negativo per la prima volta dal 1998, che è l'anno in cui l'agenzia Bloomberg ha cominciato a diffondere questo monitoraggio quotidiano, e quindi da questo poi ripartiremo nella seconda parte della trasmissione. Vi vedo già in tanti a scriverci proprio sul tema mutui e ci ritorneremo tra poco. Cuore e denari. Eccoci ritrovati a Cuore e Denari, precisamente come giovedì nella seconda parte della trasmissione. Eccoci ritrovati a parlare del nostro denaro. Investire informati. Del nostro denaro, come lo investiamo, quali sono le modalità migliori per risparmiarlo. La rubrica che ogni giovedì vi spiega i termini del risparmio, come funzionano i vari prodotti di investimento, cosa fare a seconda di come si muovono i mercati. Stamattina con noi Simone Benismaghi, vice direttore generale di Arca SGR. Però prima di riprendere la nostra chiacchierata, è partita da un tema di grande attualità che ha suscitato tantissimo interesse da parte vostra e sul quale vi state sbizzarrendo con tante telefonate. Direi che possiamo far subito il nostro domandone. Lo facciamo subito perché abbiamo tante cose oggi da poter distribuire. Intanto i primi tre che risponderanno correttamente potranno accaparrarsi una coppia di biglietti per la data del 6 maggio a Lucca, al Teatro del Giglio, del nuovo tour di Enrico Ruggeri, Pezzi di Vita. La domanda è questa: qual è il tasso di cui abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, che due giorni fa per la prima volta è sceso sotto lo zero? È facilissimo, vi do anche un aiuto, è il punto di riferimento per le banche dell'Eurozona, ma soprattutto è il punto di riferimento più importante per i nostri mutui a tasso variabile. Non potete sbagliare. La so anch'io, senza leggere neanche la neanche risposta. La scaletta. Allora, per cui 800240024 per andare a vedere il 6 maggio a Lucca il tour Pezzi di Vita di Enrico Ruggeri. Abbiamo tanti biglietti per voi. Allora, dottor Benismaghi, siamo partiti appunto prima esplorando un po' il mondo dei tassi di interesse, del costo del denaro, dei tassi a cui le banche si scambiano denaro tra di loro e poi di conseguenza lo erogano a famiglie e imprese in Europa, in Italia. E parliamo però anche di Grecia, abbiamo sentito le notizie nel corso del giornale radio. Le voglio chiedere intanto quanto ancora questa situazione deve preoccuparci, perché abbiamo la sensazione che in certi momenti tutti siano pronti ad accordarsi, che il governo Tsipras sia pronto a fare le riforme che Bruxelles chiede, nel frattempo però si sta determinando anche questa situazione molto preoccupante per quel paese, perché pare che non abbiano in cassa i soldi per pagare a fine mese pensioni e stipendi pubblici. Allora mi chiedo, sono sempre le solite schermaglie politiche che poi si concluderanno naturalmente con qualcosa di risolto, o in questo caso c'è qualcosa di un po' più preoccupante, perché poi la Grecia deve anche rimborsare molti soldi al Fondo Monetario Internazionale, se non ha i soldi per pagare stipendi e pensioni, figuriamoci per un rimborso così importante al Fondo Monetario, che tra l'altro c'è una nuova tranche in scadenza all'inizio di maggio. Le lascio a questa analisi sulla Grecia. Sì, speriamo che non diventi il tormentone no, dell'estate, però c'è il rischio che effettivamente continuiamo a trascinarci in una situazione intrigata e poco chiara. Direi che la situazione purtroppo non evolve in maniera favorevole, perché non ci sono elementi che ci chiariscano qual è la situazione. Lei ha detto il paese sta perdendo liquidità, è vero, i depositi stanno diminuendo presso le banche greche, quindi questo è un problema. Lo Stato effettivamente ha delle esigenze di cassa anche a breve, e l'ultima manovra, che è stata quella di prendere la liquidità dagli enti locali, sta chiaramente a dire che non si trova in una situazione molto favorevole. In aggiunta, mi sembra che è tutto una situazione a livello politico, ma di concreto, di elementi messi sul tavolo per una trattativa non ce ne sono. Sembra abbastanza chiaro, e questo innervosisce molto chiaramente le istituzioni che devono partecipare a un tavolo. Non c'è questo tavolo, si sta cercando da parte dei greci ancora di trovare un accordo con la signora Merkel o con qualcun altro, tipo anche Putin, ma però di concreto, di qualcosa stringi, intorno a un tavolo, non c'è. Ma cosa vuol dire? Non hanno voglia? La stanno tirando lunga per poi arrivare a che cosa? Ecco, questo è un po' quello che sta innervosendo molto. Fra l'altro devo dire anche le uscite di alcuni ministri greci non aiutano, tipo il ministro della difesa, che è andato a chiedere rimborsi alla Germania per la seconda guerra mondiale. Francamente questo è una manifestazione di uno spirito anti-europeo. L'Europa nasce per dimenticarci del passato, per stare insieme a paesi che si sono fatti la guerra. Questa è la volontà della costruzione europea, della volontà della Francia, della Germania e dell'Italia inizialmente, no? Di mettersi insieme, di dimenticare il passato e di tutto quello che è successo. Se dopo 70 anni dobbiamo ritornare a chiedere risarcimenti per quello che è successo nella seconda guerra mondiale, credo che non abbiamo imboccato la strada sembrano giusta. Un po' tutte prese di posizione per continuare un po' a farsi belle di fronte a quell'elettorato che ha legittimato questo governo solo da pochi mesi, però ecco, poi in realtà devono mettere sul piatto qualcosa di più concreto, perché i soldi stanno finendo e quando arriveranno al punto magari di non poter più pagare stipendi e pensioni pubblici, allora, magari anche la collettività, i soldi alla greca sono forse stati dati. Ecco, esatto. Sono stati dati e tanti. La Grecia ha già ristrutturato il suo debito solo qualche anno dietro, sono stati dati tanti soldi da parte delle istituzioni europee, e quindi anche il Fondo Salva Stati, che ha prestato i soldi alla Grecia, sono soldi dei cittadini dell'Europa. L'Italia ha dato 30 miliardi con le tasse che paghiamo noi. Anche noi. Cioè, questo non lo si dice mai. Quindi anche quando qualche partito in Italia va a dire bravi Tsipras e qui e là, no, francamente bravi, un attimo, abbiamo dato i soldi dei cittadini, no, presi con le tasse, no, e quindi vorremmo sapere anche noi che cosa succede, no? Certo. Quando però siamo critici nei confronti del nostro governo, non è perché un altro paese che non ha fatto le riforme, non ha fatto quanto si era impegnato a fare in questi anni. Confidiamo in un gesto e in una serie di gesti di responsabilità da parte di tutti. Allora, intanto vedo che alla domandona che abbiamo fatto prima state rispondendo in tanti, al 349-238-6666. Noi preferiremo prendere le vostre telefonate. Stanno arrivando anche queste. C'è chi si candida naturalmente per i biglietti per il tour di Enrico Ruggeri, ma anche chi si candida per avere finanza comportamentale in azione. Più siete, più cose potremo distribuire questa mattina. Per cui mettete mano alla cornetta, nel frattempo lo ha fatto Piero dalla provincia di Milano all'800240024 con una domanda per Simone Binismaghi. Piero, benvenuto. Sì, buongiorno. Ci dica. Volevo soltanto fare una domanda molto semplice, banale forse. Come mai le banche hanno interesse a avere degli interessi negativi? È il mercato che porta su questo io credo livello, sì, che le banche non hanno nessun interesse. Il problema è che chiaramente in certe situazioni di tesoreria si può essere con un eccesso di liquidità e quindi liquidità che deve essere impiegata a breve, e quindi bisogna andare a prestarla a altri intermediari che invece ne hanno bisogno, ma non è proprio una situazione favorevole. Al contrario, oggi tutte le banche stanno cercando di uscire e di impiegare la liquidità in investimenti, certo, in strumenti finanziari. Che è un po' peraltro quello che capita anche a quegli stati che stanno mettendo adesso titoli di Stato a breve scadenza a tassi negativi. Non c'è nessun interesse naturalmente a farlo, ma soprattutto non c'è nessun interesse da parte di un piccolo risparmiatore a sottoscrivere queste obbligazioni che magari fra un anno ridaranno indietro meno di quanto non si sia investito. Anche questo un altro elemento da monitorare attentamente adesso. Esattamente, molto paradossale, però questa è la situazione, la conseguenza voluta del quantitative easing, e come dicevamo è una conseguenza paradossalmente molto diversa da quella che è successa negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti non si sono trovati in una situazione di questo genere, mentre da noi l'azione della Banca Centrale Europea, dopo appena qualche mese che ha iniziato, ci troviamo già con una struttura di tassi con rendimenti negativi su tantissime scadenze. Proprio a proposito, sì, infatti Nicoletta me lo stava segnalando, di Stati Uniti c'è una domanda. È perfetta. Adesso gliela facciamo fare, volevo solo precisare una cosa ai nostri ascoltatori, perché su questa situazione dei tassi di interesse e la relazione coi mutui a tasso variabile, che abbiamo in tanti, me compresa, molti ascoltatori si stanno chiedendo se è il caso di andare a rinegoziare con la banca, di discutere una surroga, eccetera. Allora facciamo così, siccome sono tanti, confezioniamo una bella puntata per settimana prossima, per cui daremo tutto l'ABC del mutuo in un frangente come questo, sei d'accordo? Mi piace, mutui e dintorni. Quasi quasi la fissiamo già martedì. Così almeno c'è già un appuntamento scritto per i nostri ascoltatori, lo mettono in agenda. Allora, adesso è tempo di Eraldo, buongiorno, arrivato il suo momento, Eraldo. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione di cui ce n'è un gran bisogno di informazioni dal punto di vista finanziario. Guardi, me lo sa bene Simone Binismaghi, ne parlavamo proprio a microfoni spenti, Eraldo, ci proviamo almeno, ci dica tutto. Quello che volevo chiedere praticamente è questo: si fa un gran parlare dell'aumento dei tassi di interesse da parte della Fed statunitense, sì, prima maggio, poi giugno, adesso settembre, autunno, sì. Perfetto, questo tipo di operazione volevo sapere quale ripercussione potrebbe avere sui mercati obbligazionari europei, perché da quello che vedo ci sono due tendenze opposte, da una parte a mantenere i tassi bassi in Europa e dall'altra parte invece l'economia statunitense che deve essere un attimino rallentata e quindi può sopportare dei tassi di interesse più alti. Per noi che siamo in Italia, per noi che siamo in Europa, quale scenario si potrebbe generare all'aumento dei tassi di interesse e quali opportunità si potrebbero creare per dei risparmiatori? Grazie Eraldo, che bellissima domanda, perché insomma il tema della divergenza delle politiche monetarie sta arricchendo adesso la letteratura economica e finanziaria e si spendono molte analisi su questo argomento, ma è molto intelligente la domanda di Eraldo che dice: essendo così tanto divergenti, insomma, vogliamo capire che tipo di impatto potrà esserci anche tra di noi, perché proprio tra l'altro non facciamo altro che dire, dottor Binismaghi, quanto fatti molto lontani da noi dobbiamo monitorarli, perché prima o poi nelle nostre tasche si trasferiscono, come capitò nel 2007-2008 con la crisi dei mutui subprime, anche una politica monetaria che apparentemente non ci interessa, quella della Federal Reserve, in realtà dobbiamo osservarla molto da vicino. Perché? Come rispondiamo ad Eraldo? Certo, questa è la grande sfida, proprio la parola che lei ha usato, la divergenza, è uno dei punti non conosciuti appieno, perché in realtà non c'è mai stata grande divergenza di rendimento su delle scadenze medio-lunghe fra Stati Uniti e l'area euro, ma in realtà qui ci troviamo di fronte a uno scenario completamente diverso. La Banca Centrale Americana ha iniziato nel 2008 il suo quantitative easing e l'ha concluso, poi si è fermata e adesso naturalmente si trova in una situazione in cui dovrà è iniziato per il forza tapering, dovrà, abbiamo cambiato sì, ma siamo termine. Già andati più avanti, siamo oramai in una fase in cui prima o poi dovranno alzare i tassi se non si arresta la crescita economica in maniera brusca, e quindi si tratta di capire quando, e chiaramente la struttura dei tassi negli Stati Uniti si adeguerà al rialzo e quindi i rendimenti saranno sempre più elevati. In Europa siamo in una situazione completamente diversa. Nel 2015, soltanto sette anni dopo gli Stati Uniti, abbiamo avviato noi il nostro quantitative easing. Allora, c'è chi dice, ma fra un anno finisce. Sì, la Banca Centrale Europea ha detto, noi compriamo e andremo avanti mese dopo mese fino al settembre del 2016. Però se negli Stati Uniti ci sono voluti sette anni di quantitative easing, io non so se un anno e mezzo in Europa sarà sufficiente. Anche perché lui ha detto una cosa anche in più, che l'inflazione comunque dovrebbe tornare ad aggirarsi attorno al 2%, che è quell'obiettivo di riferimento della Banca Centrale Europea, insomma, di stabilità, e bisognerà vedere se in quel momento l'inflazione girerà attorno a quella cifra. Quindi cosa vuol dire? In Europa continueranno e i tassi continueranno a rimanere bassi, schiacciati, mentre negli Stati Uniti lentamente si alzeranno. E questo cosa avrà come poi ripercussione anche per il discorso sul risparmio, che chiaramente ci sarà ancora un effetto sul cambio. È possibile, no, che ci sia ancora un effetto sul cambio con un apprezzamento del dollaro e un deprezzamento dell'euro. Questo è l'altro impatto, certo, naturalmente, perché questo è voluto anche, è voluto perché aiuta naturalmente a far uscire dalla crisi l'area euro, come lo stiamo vedendo già, no? C'è un effetto per chi esporta, c'è un boom delle esportazioni che sono incredibili. Per dare un'indicazione concreta ad Eraldo, magari, che farà una scelta di investimento anche condizionata da questo scenario, come potrà trarre vantaggio da una politica monetaria restrittiva da parte della Banca Centrale Americana? Beh, io credo che se investe in titoli americani per una componente del suo portafoglio, naturalmente obbligazionari, se vuole fare un portafoglio prudente, non con scadenze lunghe, perché chiaramente il rialzo dei tassi fa soffrire i titoli lunghi, o naturalmente in attività anche tipo le azioni, per una componente ragionevole del suo portafoglio può essere una buona opportunità per cogliere favorevolmente una rivalutazione del dollaro. Fra un po' sentiremo gli ascoltatori che si stanno candidando per rispondere al nostro domandone, però, e siccome stiamo andando anche verso sulla chiusura, ancora un paio di minuti li abbiamo, io volevo parlare di una iniziativa in casa Arca SGR, perché ci sembra molto interessante, visto che stiamo continuando anche ad analizzare l'andamento dei mercati, cercando di offrire anche ai nostri ascoltatori così un po' delle idee, degli spunti per individuare ed intercettare buone opportunità di investimento. Noi continuiamo a parlare di mercati finanziari, listini mondiali, grandi società multinazionali, le valute, e invece anche tra le piccole capitalizzazioni che spesso trascuriamo ci sono rilevanti occasioni di investimento, tanto che Arca SGR ha proprio creato un fondo di investimento che investe appositamente in quelle che definiamo in genere, in gergo finanziario in inglese, small e medium cap, quindi non le large cap. Ti è piaciuto questo? Molto, mi è piaciuto lo small. Sono le società italiane che sono quotate nei segmenti specifici di Piazza Affari, che sono lo Star e l'AIM. Ci fa il biglietto da visita di questa iniziativa, dottor Binismaghi? Come mai avete voluto puntare sull'economia reale italiana, perché in soldoni poi di questo si tratta? Esatto, si tratta di questo, perché small cap o PMI, forse piccole e medie imprese, è l'eccellenza dell'Italia. È l'eccellenza dell'Italia, è la capacità di intraprendere, multinazionali tascabili, ognuno ha il suo termine, questa è l'economia reale. Questo è un momento estremamente interessante di investire in queste realtà. Queste realtà si stanno affacciando al mercato dei capitali sotto forma vuoi di aumentare il capitale, vuoi di finanziarsi con del debito. Il risparmio delle famiglie italiane oggi è indispensabile che vada ad aiutare aiutare l'economia reale, quindi attraverso dei prodotti gestiti in maniera ben diversificata, mm-hmm. invece del fai da te, perché è molto complesso, far confluire il risparmio proprio in economia certo. reale. Voi state completando adesso la raccolta per questo fondo, sì. dopodiché l'investimento inizierà, credo, entro qualche settimana. Poi magari più avanti daremo qualche indicazione in più. Velocemente, io volevo anche fare, ma non ce la faccio stamattina, con il dottor Binismaghi, un portafoglio di investimento, magari con 10.000 euro, che cosa possiamo fare in questo momento? Sa che fa, me lo confeziona lei quando ha un po' di tempo in ufficio e noi lo mettiamo sul nostro profilo della nostra trasmissione, così gli ascoltatori ce lo avranno immortalato nero su bianco, sì, e tutti potranno andare a vederlo. Scrittamente. Esatto. Sì, vai. Abbiamo Francesco da Firenze. Francesco, qual è il tasso interbancario che è scivolato sotto zero proprio due giorni fa? Buongiorno, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Sì? La risposta dovrebbe essere Euribor. Sì, ce lo ribadisce? Euribor. L'Euribor. Complimenti. Complimenti. Bravo. Quello a tre mesi in realtà era, doveva essere ancora più preciso perché altre scadenze ancora più sintetiche c'erano già scivolate, ma va bene. Francesco va a vedere a Lucca Enrico Ruggeri insieme a Pietro da Bologna e Luciano da Piacenza che prendono i biglietti, ma dottor Binismaghi, c'è anche Alba da Genova che aveva risposto correttamente e che vuole il libro. Ottimo. Bene. È contento? Accontentiamo tutti e torniamo lunedì. Buona giornata. Buona giornata.